Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a Mebius. Fra poco parleremo di un fatto triste che ci ha lasciato un'immagine forte negli occhi e nella mente, fatto del quale qui a Mebius si può parlare perché in questo evento ci sono questioni tecniche che merita conoscere. I titoli e poi incominciamo. Nei commenti tecnici dell'incidente in cui ha perso la vita Marco Simoncelli si è parlato di sistemi di controllo automatico della stabilità. Cerchiamo di capire come stanno davvero le cose. È cambiato il vertice all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, programmi e progetti del nuovo presidente Fernando Ferroni. Adotta un pannello solare che andrà nei paesi meno industrializzati. È un'iniziativa del Centro Internazionale di Ricerche sull'Energia Solare di Costanza, in Germania. La domanda di questa settimana ci arriva dalla signora Giada. È vero che la frutta matura prima se la mettiamo vicino alle mele? Cos'è la coscienza? La nostra mente è solo il frutto dei processi fisici e chimici che avvengono nel nostro cervello? Abbiamo incontrato il filosofo Daniel Dennett, vincitore del premio Mente e Cervello 2011. Sergio Savaresi, buonasera. Buonasera. L'ho presentata subito. Sergio Savaresi è un ricercatore, docente del Politecnico di Milano e dirige un centro di ricerca, il MOVE, che è uno dei centri di ricerca più avanzati in Italia su tutte quelle che sono le tecnologie dei trasporti, e in particolare lei lavora anche su progetti che hanno a che vedere con le moto e con la loro stabilità. E allora qui credo che già avranno capito l'immagine a cui mi riferivo all'inizio, è la morte di questo ragazzo. Le immagini ci arrivarono una mattina di 3 settimane fa dal circuito della Malesia, e in una frazione di secondo un ragazzo di 24 anni se ne va. Torno a quel fatto, si sono sviluppati molti commenti di tipo tecnico anche, che hanno parlato di un sistema di controllo della stabilità della moto che non era però probabilmente funzionante come doveva essere, oppure di una violazione di questo sistema da parte del pilota. Insomma, c'erano diverse cose un po' confuse, e allora abbiamo pensato di chiarirle con lei. Intanto, secondo lei, com'è andata quella? Perché l'immagine purtroppo l'abbiamo chiara bene, certo, in mente tutti. Allora, premesso ovviamente che è, come dire, triste, per certi versi un po' cinico, fare disaminare in modo tecnico un aspetto così drammatico. Allora, dal punto di vista tecnico, direi in estrema sintesi, in quelle frazioni di secondo sono accadute 3 cose. La prima è il pilota ha, esagerato, quindi ha scivolato in uscita curva. La seconda fase, appena successiva, è stato il momento in cui il pilota ha cercato di contrastare questa scivolata. E la terza, in cui la motocicletta si è messa di traverso rispetto alla pista e quindi ha incontrato i due piloti che sopraggiungevano, e quindi da qui, l'evento drammatico. E stiamo parlando di un mezzo che un sistema di controllo della stabilità ce l'ha a bordo. Come ha funzionato, come ha interagito con queste, certo, 3 fasi? Allora, quindi andiamo un pochino a ritroso di queste 3 fasi. Nell'ultima fase in realtà non c'è poco da dire, nel senso che la motocicletta ha avuto una traiettoria perpendicolare alla pista. A questo punto c'era ben poco da fare, si è trovata in una situazione che era a questo punto irrecuperabile. Andando un passo indietro, la fase in cui il pilota ha tentato di contrastare questa scivolata, in questa fase in realtà il sistema di controllo non poteva fare nulla. Il pilota, nella sua esperienza, aveva il ricordo di essere riuscito in altri contesti a, risollevare la moto, e quindi invece di fare una cosa molto più sicura, ovvero lasciare scivolare la motocicletta, ovviamente avrebbe concluso così il suo, la sua gara, lui ha tentato di contrastarla. Questa è stata una sua azione che lui ha tentato di fare, chiaramente gli ha giocato contro. La vera fase delicata dal punto di vista tecnico è stata la prima, cioè il momento in cui la motocicletta è scivolata. Allora, in questa fase qui normalmente interviene il cosiddetto famoso, famigerato controllo di trazione, che è un sistema di controllo elettronico che tenta di evitare appunto un eccessivo slittamento e scivolamento della motocicletta. Quindi la fase tecnicamente delicata è stata quella. Da questo punto di vista, la mia personale opinione, premesso ovviamente che bisognerebbe osservare i dati della onda, che ovviamente non verranno mai esposti, non ci sia stato un errore tecnico, un malfunzionamento tecnico. Quello che si potrebbe, come dire, ipotizzare è il fatto che semplicemente il controllo di trazione non ha fatto il massimo possibile che si poteva fare in quelle condizioni. Perché? Allora, un motivo banale è che il pilota ha volutamente dato una taratura, un settaggio di questo sistema in modo eccessivamente blando. Lo fanno spesso i piloti perché non vogliono un sistema invasivo, cioè loro preferiscono correre qualche rischio in più rispetto al perdere un decimo in uscita curva. Okay. Quindi questa è un'ipotesi ovviamente banale, è possibile. L'altra ipotesi è che il sistema in qualche modo non abbia funzionato nel modo ideale. E qui bisogna entrare in un dettaglio molto tecnico, ma per certi versi interessante, cioè questi sistemi così evoluti sono dotati degli scatolotti che contengono dei sensori, che sono molto simili a quelli che troviamo sui telefonini, che sono in grado di stimare l'angolo di piega, l'inclinazione, certo. Esatto, sono cose molto sofisticate, diciamo un controllo di trazione sviluppato e progettato al meglio, non solo fa una stima estremamente accurata dell'angolo di piega, ma è anche in grado di adattare la strategia di controllo in funzione dell'angolo, cioè fa cose diverse in funzione dell'angolo. Allora è possibile ipotizzare che questo sistema di controllo di trazione o non avesse un adattamento fine rispetto all'angolo di piega, oppure a un angolo così estremo, quindi stiamo parlando di angoli 60, 65, 70 gradi, quindi veramente tantissimo. Estremi, la stima dell'angolo di piega non sia stata fatta nel modo veramente ideale, perfetto, che richiede questo tipo di sistema. Quindi in quel momento lì può darsi che si poteva fare un pochino di meglio, ma escluderei l'errore tecnico. Questa è l'analisi. Le chiedo solo in conclusione rapidamente, state lavorando, probabilmente non solo lei, potrebbero arrivare dei sistemi che in sostanza si imporranno al pilota, dando quindi una stabilità forte. Certo che se poi dopo uno va a correggerli, certo, questo è il punto. Diciamo che oggi questi sistemi di controllo di trazione nelle motociclette più raffinate esistono già. Stiamo lavorando a una nuova generazione che è un controllo addirittura di stabilità, che non solo controlla la trazione ma anche la frenata in modo combinato. Tutto. È evidente che sono sistemi che si sovrappongono al pilota, quindi si impongono, ma lo fanno giustamente perché intervengono quando il pilota non è più in grado di intervenire. È chiaro che tutti si prestano alla disabilitazione, quindi se il pilota decide di non utilizzarli, ovviamente si espone a un rischio maggiore. Grazie Savarese. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso parliamo di mele. Siamo al quiz. Allora, la domanda è la seguente: le mele messe vicino ad altra frutta, è vero che la fanno maturare prima? No, e quindi ci scriverete no, e questa è la prima possibile risposta. La seconda, sì, ed è una caratteristica specifica delle mele, e ci scriverete sì. Terza possibilità, sì, ma non solo le mele hanno questa proprietà, e ci scriverete sì e no. Come scriverete? Beh, con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Psicotech, il punto di non ritorno, la tecnologia che controlla la mente, di Antonio Tesi, edito da Springer, e questo libro è offerto da librerierizzoli.it. E delle mele che fanno maturare altra frutta parleremo fra poco, e la risposta la troverete all'interno di quel servizio. C'è un importante istituto di ricerca italiano, l'INFN, ne abbiamo parlato tante volte, l'Istituto di Fisica Nucleare, ed ha un nuovo presidente, e ce lo presenta Barbara Gallavotti. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha un nuovo presidente. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è quell'istituto che gestisce la ricerca in fisica delle particelle. Per intenderci, i suoi fisici lavorano all'acceleratore LHC di Ginevra, di cui abbiamo parlato molte volte. Il nuovo presidente è Fernando Ferroni. È un fisico romano, un fisico sperimentale, ha lavorato a diversi esperimenti, diversi dei quali al CERN di Ginevra, ha lavorato sui neutrini, su cui le farò più tardi una domanda, perché i neutrini sono in questo momento le superstar mediatiche della fisica. Intanto le do il benvenuto. Buonasera Fernando Ferroni. Buonasera. Intanto, per prima cosa, le vorrei chiedere che situazione si trova davanti, perché la fisica mondiale, la fisica delle particelle in particolare, sta vivendo un momento particolare. Tutto sembra ruotare intorno a LHC. Qual è la situazione del mondo? Dunque, Dunque, è vero che dal punto di vista, diciamo, dell'investimento, del numero di persone che partecipano alla ricerca, l'EHC sembra essere il centro del mondo. In parte lo è. Tuttavia ci sono altre iniziative estremamente importanti in corso, per esempio sulla fisica dei neutrini e sulla fisica, diciamo, nel underground, nei laboratori sotterranei e nello spazio, che hanno un potenziale enorme, diciamo, di scoperta per noi. Quindi è vero che l'EHC è la superstar, ma è ben contornata da altri esperimenti di grandissima importanza e che possono portare a delle scoperte fondamentali. Beh, se la fisica dei neutrini e i laboratori sotterranei sono alla frontiera della ricerca in questo momento, siamo messi bene, perché abbiamo uno dei più importanti laboratori al mondo. Il Gran Sasso è il più bel laboratorio del mondo per una serie di circostanze: il fatto che abbia un volume che è il più grande di tutti, la semplice accessibilità attraverso il tunnel autostradale, la qualità del fondo, la capacità di schermaggio rispetto ai raggi cosmici, alla radioattività naturale, la forza, diciamo, dei nostri ricercatori, e comunque come certificazione di questo c'è il fatto che un numero grandissimo di ricercatori vengono da tutto il mondo per lavorare al Gran Sasso. E proprio dal Gran Sasso è arrivata la notizia che sarebbe stata misurata la velocità dei neutrini e questa risulterebbe essere superiore a quella della luce. È chiaramente un dato che va confermato, va verificato, questo i ricercatori l'hanno detto in tutti i modi, però lei a pelle cosa pensa? Diciamo, da un certo punto di vista mi piacerebbe se fosse confermato, perché vorrebbe dire che la ricerca scientifica in questo settore dovrebbe ripensare molte cose e avrebbe certamente molto pane, diciamo, su cui da mordere e tante vie nuove da aprire. E tuttavia, diciamo, uno deve essere sanamente e realisticamente scettico. Qui si sta mettendo in discussione un caposaldo, diciamo, della fisica che sta lì ormai da 100 anni e che fino adesso non ha mai dato segno di vacillare, quindi bisogna semplicemente, prima di abbandonarla, umilmente da fisico sperimentale io dico che bisogna aspettare altre evidenze. L'esperimento stesso, che in questo momento sta cercando di fare una verifica con un fascio di qualità diversa e da un certo punto di vista superiore, e altri esperimenti in Giappone e negli Stati Uniti che presto faranno la stessa misura. Sempre a proposito di fisica in Italia, si è parlato molto della necessità di dotare l'Italia di un nuovo laboratorio internazionale che in qualche modo faccia un po' da controparte italiana al CERN, non da concorrente, ma che rappresenti un punto di riferimento non solo per l'Italia, ma almeno per l'Europa. Questo laboratorio si chiama Super B. Lei cosa ne pensa? È chiaro che non è un laboratorio concorrente del CERN. Il CERN è il laboratorio in cui si cerca di sfondare, come dire, la frontiera dell'energia, cioè si cercano di costruire macchine di energia che ci permetta di esplorare l'ignoto sostanzialmente, sfruttando appunto il fatto che due particelle, quando si scontrano con altissima energia, possono produrre tutto quello che, diciamo, è accessibile, dato dalla natura, che la natura ha previsto e che è quindi accessibile data questa quantità di energia che uno mette in gioco. La Super B è un laboratorio diverso, è un acceleratore in cui si cerca di esplorare la frontiera dell'intensità, in cui appunto si cerca di produrre un numero enorme di collisioni per andare a poter misurare con grandissima precisione dei fenomeni rari. C'è una complementarietà assoluta, diciamo, tra le due macchine: i risultati dell'una possono confortare l'altra, questo nel caso di LHC, ma in un certo senso la Super B potrebbe persino, diciamo, trovare evidenza di nuova fisica al di là del modello standard, anche se LHC non trovasse nulla. Quindi, diciamo, c'è una complementarietà tra le due macchine. Però la Super B ha anche ha avuto una notevole opposizione nella vostra comunità. Beh, diciamo, c'è un problema ovvio: che se la Super B venisse o dovesse essere in carico alle finanze, al budget dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e basta, questo significherebbe, diciamo, stravolgere i programmi di ricerca e cambiarli in maniera molto radicale. Non mi pare che questa sia l'idea dietro questo progetto. Mi sembra che in qualche modo si cerchi di usare il famoso 8% del fondo ordinario di finanziamento degli enti di ricerca, che dovrebbe essere ripartito sui progetti bandiera, cosiddetti, diciamo così, denominati dal governo. Quindi, diciamo, il rischio sembrerebbe essere quello di dover in qualche modo contribuire con una quota del genere sul bilancio degli NFN, ma non di più di questo. E in qualche modo, diciamo, è una cosa che va ancora capita fino in fondo, tuttavia. Ma secondo lei il ruolo degli enti di ricerca in Italia sta cambiando? Una volta erano delle strutture che dovevano far crescere la ricerca, oggi la devono soprattutto far resistere? Beh, sono vere tutte e due le cose. E intanto, come dimostra, diciamo, l'istituto che ho l'onore di dirigere, non mi pare che ci stiamo adagiando, diciamo, sulle glorie del passato. Certamente abbiamo lavorato duramente per 20 anni, diciamo, per costruire l'LHC e farlo funzionare, adesso ce ne vogliamo, come dire, godere i risultati per un po', ma stiamo comunque mettendo in piedi delle iniziative, appunto, nei laboratori sotterranei, di fisica nucleare come ai laboratori di Legnano, dove costruiremo un nuovo acceleratore. Stiamo pensando a esperimenti nel mare per la rivelazione dei neutrini che vengono da lontano, dal cosmo. La Super B mi sembra un esempio comunque di progettazione a lunga scadenza e che in qualche modo tenta di sfondare questi vincoli apparentemente soffocanti che ci stanno intorno. Certamente dobbiamo anche difendere, perché la situazione è estremamente complessa e dobbiamo presidiare, come si dice, il campo in maniera più attenta e meno scontata di quanto fosse una volta. Quindi direi che tutti e due gli aspetti sono veri. Grazie Fernando Ferroni e buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pannelli solari, ma non qui per noi, per altri paesi, per paesi in via di sviluppo dove spesso c'è anche molto più sole. Ciao Chiara. Ciao Federico, pannelli solari per tutti, forse è lo slogan migliore. E allora, qui con noi stasera c'è Giuseppe Galbiati, che è un ricercatore italiano, che però è un cervello in fuga perché si è trasferito a Costanza per lavorare nel Centro di Ricerca Internazionale sull'Energia Solare, che appunto ha sede a Costanza, in Germania. Adesso ci facciamo spiegare da lui di che cosa si tratta e che tipo di startup è nata. Buonasera Galbiati. Buonasera a tutti voi. Allora, abbiamo detto che circa 6 anni fa è nata una startup all'Università di Costanza, appunto costituita da ricercatori e professori. Che cosa fate lì a Costanza, in questo centro di ricerca internazionale? Sì, come giustamente dici lì, Costanza, sì, Costanza è nata come startup dell'Università di Costanza e diciamo, siamo stati spinti da nuovi orizzonti di ricerca, da spostare la ricerca da un punto di vista accademico a una ricerca orientata sull'applicativo in collaborazione con l'industria. Cosa facciamo? Ci occupiamo specialmente di celle solari a base di silicio, non facciamo organico, non facciamo silicio amorfo, è silicio cristallino. La vostra società, cioè il centro di ricerca, è no profit, quindi all'interno di questa attività di ricerca affiancate anche un'attività sociale, ed ecco perché dicevamo prima celle solari per tutti. È un'attività di cooperazione per lo sviluppo, volta appunto ai paesi che hanno delle carenze energetiche, cioè diciamo quei paesi che hanno le risorse naturali ma purtroppo non le tecnologie per sfruttarle. E allora che cosa fate? Nei nostri titoli dicevamo adotta un pannello solare, che cosa significa Galbiati? Sì, vuol dire che questa attività adotta un pannello solare è nata all'interno di questo progetto di cooperazione allo sviluppo che portiamo avanti oramai da 2 anni. Come facciamo questo? Lo facciamo attraverso attraverso un progetto di donazione, per cui all'interno di questo progetto SLAC in cui siamo attivi in Camerun cerchiamo di elettrificare dei piccoli villaggi remoti dove hanno problemi, seri problemi di energetici, ancora attualmente hanno generatori che funzionano a kerosene, che sono altresì molto inquinanti e molto dannosi per la salute della popolazione, e cerchiamo di installare pannelli solari che arrivano da donazioni da parte delle nostre società partner, quali Centro Solare, Solar World, grossi nomi a livello internazionale. Siamo attivi in Camerun, come dicevo, siamo attivi anche in India. In India cerchiamo di utilizzare l'elettricità per 2 motivi fondamentali: primo per purificare l'acqua e secondo per dal punto di vista refrigerativo, cerchiamo di far funzionare i frigor quando manca elettricità per mantenere in condizioni ottimali i farmaci. Il nostro obiettivo ultimo è quello di creare proprio formazione a livello locale con le istituzioni, con le università. Ci sono menti molto eccellenti all'estero che semplicemente per una questione di soldi, per una questione di limitazioni culturali non riescono ad emergere. L'iniziativa allora Galbiati, adottare un pannello, vuol vuol dire che anche dei singoli cittadini, ma anche delle aziende, cosa fanno? Finanziano l'acquisto di un pannello, la produzione di un pannello che finisce poi giù in questi paesi, che voi installate. Il progetto è veramente molto ampio. Noi installiamo questi moduli che portiamo, che abbiamo portato in camera, che stiamo cercando di portare in India. Dovete capire che la cosa è molto complessa, non semplicemente avere dei moduli è tra virgolette facile, poi riuscire ad avere i governi che ci appoggiano in questo processo non è assolutamente semplice. E forse anche qualcuno che li mantenga in qualche modo e che sia in grado di farli funzionare e di ripararli qualora fosse necessario. Siamo attivi, esattamente, per cui facciamo formazione, le persone non sanno cos'è il fotovoltaico, le persone non sanno cos'è un modulo, avere una casa in un paese dove c'è veramente carenza di energia, dove improvvisamente c'è una lampadina che funziona e che illumina la casa dopo le 8 di sera è qualcosa che genera stranezza. E pertanto bisogna educare le persone e lo facciamo sul posto, e ovviamente la nostra idea è quella di portare queste persone, i tecnici, le persone che lavorano nelle università là, a portarle qua in Germania e cercare di educarli, di farli capire. Il nostro obiettivo ultimo è quello di arrivare magari a creare una microeconomia all'interno di questo, pertanto attraverso, che ne so, progetti come microfinanziamento, che in Bangladesh stanno andando benissimo, persone possono attingere a un microcredito e con questo comprare qualche cosa, comprare un pannello solare lì sul posto, fino al punto, sogno ultimo, quello di magari riuscire a installare una mini fabbrica laggiù. Non hanno bisogno, hanno tanto sole, non hanno bisogno di grosse estensioni. Senta Garbiati, negli anni è capitato spesso, insomma, che tecnologia un po' vecchiotta, un po' sgangherata dal nord andasse verso il sud. Invece queste attrezzature che voi portate sono cose che lì possono funzionare, che hanno una loro modernità. No? Guardi, sì, assolutamente. Non dico lo state of art della produzione delle compagnie, nostre partner. Diciamo che abbiamo raggiunto dei compromessi ottimi con industrie che producono moduli. Riusciamo a ottenere moduli che non sono il top di classe, ma sono di classe B. Funzionano benissimo, però magari non è esteticamente bello, magari. Okay. Però in questi paesi non importa tantissimo se è esteticamente bello o no. Galbiati, ci dà un contatto per... Allora, sul nostro sito si può trovare la modalità per entrare in contatto con voi e eventualmente donare un pannello. Se ci dà velocemente il sito, poi la salutiamo. Sì, il sito è www.isc-constance.de Deutschland. Sarà meglio andare al nostro sito. Grazie Galbiati e in bocca al lupo. Arrivederci. www.moebiusonline.eu e vedrete subito un qualcosa che vi richiama i pannelli per il sud del mondo. Siamo alle domande che ci arrivano dagli ascoltatori. Chiara, anzi, è un'ascoltatrice che si chiama... questa settimana è Giada, ci ha contattato tramite Facebook, che è un modo con il quale appunto potete scriverci. Il nostro profilo di Facebook è Moebius Scienza, ma potete farlo anche mandandoci una mail con le vostre domande a moebius@radio24.it. Buonasera Giada, ci dica qual è la sua domanda. Buonasera, io volevo sapere se è vero che la frutta matura prima se messa vicino alle mele, e se sì, e perché? Le mele sono sempre al centro della scienza. Cade la mela sulla testa di Newton. Adesso sì, sì. È un po' più piccolo questo come problema. Questo è un quesito un po' dimensionato e ovviamente per rispondere abbiamo il professor Gaetano Guerra. Buonasera professore. Buonasera a voi. Lei è docente di chimica delle macromolecole presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Salerno e sa tutto sulle mele e quant'altro, insomma, sulla maturazione. So qualcosina sulle mele, so un po' di più sui materiali per l'imballaggio delle mele, ma comunque a questa domanda so rispondere abbastanza bene. Quello che dice la signorina Giada è esattamente vero. La presenza di frutta matura, soprattutto mele e altri tipi di frutta come i kiwi, che producono etilene, che è il segnale per la maturazione della frutta, è la molecola che spontaneamente viene prodotta dalle piante, l'ormone, per favorire la maturazione e quindi anche la marcitura poi successivamente. Quindi è una molecola, la piccola molecola dell'etilene, che è in grado di far maturare più rapidamente la frutta. Solo le mele? No, questo non è vero solo per le mele, è vero per tanti tipi di frutta, è vero per esempio per le banane. Lì il fenomeno è un po' differente, nel senso che le banane arrivano acerbe dai paesi di produzione in Europa e si fanno maturare nel momento in cui vengono immesse sul mercato, fornendo ad esse dell'etilene, e stavolta è dell'etilene esterno, ma ovviamente del tutto indistinguibile da quello prodotto naturalmente dalle piante e dalla frutta, e quindi gli si dà l'etilene in modo che dal giorno poi successivo possono cominciare a maturare. Come tutti sappiamo, poi le banane possono stare solo pochi giorni perché poi maturano troppo. Ecco, scusi Guerra, per chiarezza, sia le mele fanno maturare le altre mele, sia le mele fanno maturare anche altra frutta vicino, cioè se noi abbiamo il cesto di frutta, come chiedeva Giada. Il segnale di maturazione è esattamente lo stesso, è sempre la molecola dell'etilene. Beh, ma allora la risposta non è così affermativa, nel senso che la frutta messa un po' tutta insieme sviluppa etilene e si fa maturare una con l'altra, cioè non è, sì, è una... così. E poi ci sono dei tipi di frutta, quali appunto le mele, i kiwi, che ne producono un po' di più, e sui tipi di frutta che sono sensibili quasi tutti tranne gli agrumi esercitano questa azione decisamente efficace, che ovviamente oltre a un certo limite diventa negativa, è il motivo per cui la frutta un po' matura va separata, può essere separata dalle altre, perché altrimenti favorisce la marcitura del tutto. Brevemente Guerra, lei lavora appunto, come ci diceva, sul packaging, esatto. Sulle confezioni. Che cosa significa? Sfruttate questo elemento in che modo? Come può capire bene, in molti casi c'è il problema di immagazzinare la frutta e di tenerla, di non farla marcire prima dello smistamento, della collocazione sul mercato. Per cui quello che è importante fare è far sì che non ci sia una concentrazione di etilene troppo elevata. E questo si fa usando tipicamente degli assorbitori. Quando sono ambienti molto grossi si utilizzano dei opportuni sistemi che consentono di aspirare l'aria, rimuovere l'etilene e assorbirla con sostanze tipo permanganato di potassio. In altri casi, quando è la frutta del supermercato, quello che è importante è che queste sostanze assorbitrici siano nell'imballaggio, quindi banalmente nel film plastico trasparente attraverso il quale che serve a proteggere la frutta così dallo sporco e da possibili inquinamenti batteriologici, ma può anche servire, se c'è dentro degli assorbitori, a rimuovere le molecole dell'etilene e quindi ritardarne la maturazione. Quindi evitare che marciscano. La stessa cosa, lo stesso accorgimento si potrebbe trovare anche sui banchi del supermercato. Sì, sì. Al momento esistono già dei sistemi del genere in cui all'interno dei film polimerici aggiungono delle piccole quantità di sostanze assorbitrici. C'è il problema, l'inconveniente, che a volte rendono un po' più opaco l'imballaggio, che non è molto gradito ai consumatori. Al consumatore. Adesso io sto lavorando specificamente in questo settore, in imballaggi in cui il polimero stesso ha delle cavità in fasi cristalline, un po' come esistono certi materiali cosiddetti zeoliti, materiali inorganici, che hanno delle cavità di dimensioni molecolari, in cui ogni buco ha la dimensione di una singola molecola di etilene. Questo le fa catturare facilmente e li allontana dall'ambiente in cui si trova la frutta, espellendola poi dall'altro lato dei catturatori di etilene. Sì. Va bene, grazie e buon lavoro Guerra. Grazie a lei. Arrivederci, buon lavoro. Una ruota in legno, a guardarla adesso sembrerebbe poco rotolante, ma è difficile dire se così fosse qualche migliaio di anni fa oppure se il tempo tanto l'ha consumata. È questa ruota uno dei tanti manufatti che appaiono nella mostra Homo Sapiens, che si è aperta questa settimana a Roma al Palazzo delle Esposizioni. C'è tempo per vederla, ma neanche tanto, sarà a Roma fino al 12 febbraio. La storia della nostra specie, dunque, questo è l'obiettivo dell'esposizione, la storia da quando poche centinaia di individui, non di più probabilmente, iniziarono a spostarsi verso nord partendo da un luogo torrido delle pianure etiopiche. Sì, perché la storia non parte da quei primi primati che si allontanarono un poco, ma significativamente, però dai cugini che scimmie restarono, e questo ci porterebbe a qualche milione di anni fa. No, una storia che racconta la mostra è quella dell'Homo sapiens, quindi 200.000 anni fa circa, non c'è precisione, ma le cifre ormai sono alquanto confermate. Certo, sembra impossibile che poche centinaia di animali, però molto intelligenti, abbiano combinato tutto quello che c'è adesso che siamo 7 miliardi. D'accordo, abbiamo fatto davvero molte cose, non tutte belle, poche quelle belle rispetto a quelle brutte, va bene, forse anche questo è il bilancio da trarre, ma è anche vero che sembreremo animali in grado di migliorare, di comprendere come fare meglio ciò che non si faceva bene. E se andiamo indietro nel tempo, beh, di cose brutte ce n'erano mica poche, no? Ecco, di questa mostra parleremo in una delle prossime puntate, ma già mi sembra evidente il seguente suggerimento: andate a visitarla non solo per osservare i reperti di una storia tanto antica, come vi dicevo, e vi posso assicurare che questo viaggio è affascinante, no, andate anche a vederla pensando ad oggi, al fatto che siamo arrivati fin qui e che stiamo vivendo anni nei quali abbiamo scoperto che alcune cose importanti bisogna farle in un altro modo. Quindi siamo in un punto molto importante, molto significativo di questa lunga storia iniziata 200.000 anni fa. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Non c'è niente da fare. Ogni tanto questo tema ritorna in qualunque appuntamento scientifico, ed è la mente. Che cos'è la mente? Come funziona? La coscienza? Alberto Agliotti, ciao, sei qui con me. Ciao, in studio. Buonasera a tutti, sono qui, ma sarò poi veramente io? Ecco, insomma. Iniziamo subito a confondere le acque. Allora, Daniel Dennett è stato a Torino e tu l'hai intervistato, introducici un attimo Dennett. Dennett è un filosofo americano celebre per varie cose, tra cui un libro di un po' di anni fa che era L'Io della Mente, in cui affrontava, come poi ha fatto anche in seguito, questo tema della mente e il cervello, se sono due cose diverse, se sono la stessa cosa, se si può spiegare la mente attraverso il cervello. Ed era a Torino proprio perché ha ricevuto il premio Mente e Cervello 2011 dal Centro di Scienza Cognitiva dell'Università di Torino. L'abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto qualche domanda. La prima domanda che gli hai fatto qual era? La prima domanda riguarda proprio il tema chiave. Lui cita sempre Alan Turing come esempio, che è quello che ha teorizzato il computer come una macchina in grado di fare calcoli senza necessariamente dover capire cosa significano questi calcoli, quindi in grado di isolare dei processi senza dover per forza comprendere il sistema completo. E quindi allo stesso modo ci si chiede, e lui risponde... Potremmo essere così... Sì, anche noi. Lui dice di sì, cioè la nostra coscienza potrebbe essere spiegata semplicemente attraverso la fisica del cervello, i fenomeni fisici che avvengono nel cervello. E tu gli hai detto, le cose stanno veramente così? Sentiamo. Sì, non è necessario pensare alla coscienza come qualcosa di diverso dai fenomeni fisici che succedono nel cervello, di qualcosa di separato. E si potrebbe pensare alla coscienza invece come a una proprietà informazionale del cervello, è proprio ciò che il cervello fa. E quindi si può pensare che un giorno si potrà arrivare a costruire un automo, una macchina che può avere quello che noi chiamiamo coscienza, in questo senso. Sì, penso che sia possibile. Penso che non verrà fatto per motivi puramente economici e pratici. Se avessimo una macchina che possiede la coscienza, dovremmo di fatto trattarla come una persona, mentre è meglio per noi dal punto di vista pratico avere delle macchine che possiamo trattare come macchine. L'uomo è un animale sociale, e qui in qualche modo ci colleghiamo al lavoro di Henry Kemmel, che è l'altra ricercatrice che ha ricevuto il premio Mente e Cervello 2011 per gli studi che ha fatto sui bambini, sulla loro capacità di capire il punto di vista degli altri, che è un po' un aspetto base per la collaborazione, quindi l'interazione collaborativa. Quindi se l'uomo è un animale sociale e noi siamo in qualche modo degli automi, come è stato detto, può esistere qualcosa come una coscienza sociale, cioè un'intelligenza collettiva che nasce dal nostro agire come singole parti di un insieme più grande? Yes, we have to be careful what we mean by this. Penso che qui sia necessario fare molta attenzione a cosa intendiamo, ma da un certo punto di vista sì. E gli esseri umani sono particolarmente bravi a coordinarsi l'uno con l'altro. Possiamo pensare all'esempio dei musicisti in un'orchestra. Gli esseri umani sono stati dotati dall'evoluzione genetica di abilità assolutamente sorprendenti da questo punto di vista, che non ritroviamo per esempio negli scimpanzé e in altri animali. E questa capacità di coordinazione possiamo pensare che dia luogo a qualcosa che può somigliare a una una specie di coscienza collettiva. Alcuni studiosi parlano di stati di coscienza, cioè nel cervello avvengono continuamente dei processi in parallelo che sono legati un po' a tutti gli stimoli sensoriali che riceviamo, e a un certo punto questi processi vengono costretti a formare una serie. Edoardo Boncinelli, un genetista italiano, parla di una clessidra, propone questa immagine della clessidra per cui questi eventi, questi fenomeni, questi processi vengono a un certo punto costretti a stare insieme e poi tutto si separa di nuovo, ecco. Questi attimi sarebbero l'emergere proprio della coscienza. Lei cosa pensa di questa visione? Well, I think that's a version of my theory. Penso che questa sia in effetti una versione della mia teoria, la mia teoria delle versioni multiple, cosiddetta, e l'idea è che ci siano continuamente nel cervello, vengano prodotte versioni della realtà multiple in competizione e che ad un certo punto una di queste versioni acquisisca maggiore influenza rispetto alle altre. Quello che è importante capire è che in questa teoria all'influenza di una certa versione non segue qualcos'altro, una specie di passaggio magico che poi determina la coscienza. L'essere influente in quel momento è esattamente ciò che si intende per essere coscienti. Ma quindi in questo senso noi siamo una successione di questi atomi di coscienza? Well, no, I think that we are much more than that. No, in realtà penso che siamo molto più di questo, e questi momenti in qualche modo memorabili, che possono essere anche per esempio descritti, riportati, sono solo una frazione molto piccola di quello che succede nel nostro cervello, e in realtà molto di quello che è il nostro comportamento, i nostri atteggiamenti verso il mondo dipende da processi che non sono così facilmente descrivibili, riportabili, a cui non abbiamo questo tipo di accesso. Se noi avessimo solo il flusso di coscienza, questo non sarebbe sufficiente a spiegare quello che noi siamo e il nostro comportamento nel mondo. Grazie Daniel Dennett, grazie a Marco Del Giudice, prego, psicologo evoluzionista del Centro di Scienze Cognitive dell'Università di Torino, che ci ha fatto da interprete. Grazie a voi. Maurizio Ferraris, filosofo noto, poi è stato spesso anche qui in trasmissione con noi. Buonasera Ferraris. Buonasera. Buonasera Ferraris. Allora, buonasera, eccomi qua. Ma ne verremo mai a capo di questo problema? Complesso, effettivamente. Mi sembra che, come l'ha messa Dennett, sia un modo molto sensato di venirne a capo. In fin dei conti non c'è niente di sorprendente che la coscienza sia un risultato piuttosto che un presupposto. Questo non ha niente di scandaloso né di riduttivo. Noi siamo radicalmente diversi da altri esseri, questo che ci preoccupa, e sensatamente ci preoccupa, ma non perché dall'origine ci venga infusa un'anima che ci rende diversi da questi, ma perché abbiamo una dotazione psichica e un cervello talmente ricco e articolato, quindi memorie che sono, milioni di memorie che sono da una parte incamerate dentro il nostro DNA, dall'altra incamerati dentro la nostra mente e tutti i nostri neuroni, e da questo viene fuori qualcosa che si chiama coscienza. L'osservazione che farei rispetto al discorso di Dent, se prima o poi si potrà fare una macchina dotata di coscienza, sì, appunto pensare che effettivamente mettere una coscienza alla macchina significa poi dopo doverla trattare come un uomo e quindi non poter essere inumani. No. Però secondo me c'è anche un altro motivo, e cioè il fatto che per avere una coscienza è necessario, a mio parere, anche avere un corpo, delle sensazioni. E quindi questo è il motivo per cui in effetti le macchine non potranno mai essere davvero coscienti, potranno avere memorie, ricordi, pensiero, potranno pensare molto bene, stanno già pensando molto bene, però sentire avranno grosse difficoltà. E bisognerebbe vedere anche se dargli il diritto di voto, insomma. Però sì, per esempio. Ferraris, c'era qualcuno che diceva lei non sa chi sono io, e in questo caso il problema è che io non so chi sono io, o no? Sì, indubbiamente noi siamo identificati da tante cose, siamo identificati dal nostro passaporto, dal fatto di avere il nostro corpo. Immaginiamo una mattina che ci guardiamo allo specchio e la faccia un'altra, cominciamo ad avere delle crisi di identità, dei nostri ricordi e dalle nostre memorie. A me recentemente è capitato che mi hanno settato diversamente per fare un collegamento Skype e un computer, il risultato ho cominciato a ricevere la posta di un altro, e questo ha provocato una crisi di identità. Quindi questo per dire, adesso mi rendevo conto che ero io, però una lieve inquietudine quando comincio a ricevere delle poste di un altro si dà sempre quelle, per questo si inturbano i doppi, c'è sempre queste figure Jekyll Hyde eccetera, perché noi sappiamo come il nostro essere noi sia dipendente da tante cose, comprese appunto archivi, memorie. Questo è il motivo fra l'altro per cui siamo sempre più dotati di archivi, per cui cose come i telefonini o gli iPad sono date delle memorie portatili a cui continuamente ci riferiamo e che fanno parte della nostra identità. Quando noi perdiamo un telefonino è molto più che aver perso uno strumento per comunicare. Io però vorrei chiederle, è possibile una simulazione della mente parziale e quindi una macchina che sia, abbia un livello di coscienza molto mirato, manifestato in una certa direzione e poi per il resto non abbia niente? Oppure la mente o la rifacciamo tutta con una macchina oppure no? Ma non ho le competenze da filosofo della mente per rispondere a questa domanda. Io quello che trovo è che comunque noi abbiamo adesso la prova che queste macchine molto più sofisticate di quanto non fossero un tempo riescono a fare delle prestazioni che un tempo si pensava che mai una macchina avrebbe potuto fare. In fondo c'è quella novella di Poe, I giocatori di scacchi di Maelzel, dove c'era uno che girava per le fiere facendo vedere una macchina che, oh meraviglia, giocava a scacchi, e poi è stato smascherato perché dentro c'era un nano. Invece adesso ne abbiamo parlato, è normale giocare a scacchi con le macchine, quindi questo siamo riusciti a farlo. Secondo me la domanda non è tanto potremo costruire delle macchine che diventeranno dotate di coscienza, ma piuttosto il modello della macchina è in grado di spiegare la nostra coscienza? E secondo me la risposta è sì. Ferraris parla di queste cose anche nel suo ultimo libro Anima e iPad, una parte di noi, della nostra anima e della nostra coscienza, quindi anche in questi archivi. Lei lo sa che poi questa intervista sarà sul sito mebiusonline.eu e quindi una parte di lei sarà anche da noi? Un'ipotesi, questa mi fa molto piacere, dopo un po' però diventa inquietante, uno comincia con questa crescita del web a pensare che ci sono una quantità di cose sue sparse, però questo era già il destino una volta. Se immaginiamo uno scrittore di successo, che ne so, Balzac, i suoi libri erano sparsi per la Francia, io penso che non fosse tanto inquieto, pensavo sì certo ci sono delle parti di me sparse per la Francia, dopodiché io sono qua bello grasso, tranquillo. Grazie Ferraris, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Siamo alla 12ª uscita della collana Beautiful Minds, la scienza raccontata dai grandi scienziati. Escono con Il Sole 24 Ore nell'edizione del weekend e poi la trovate in edicola per tutta la settimana successiva. Questo nuovo DVD della collana è dedicato a Max Planck, un grande della fisica di tutti i tempi, raccontato da Sheldon Lee Glashow, premio Nobel per la fisica nel 1979. Max Planck nacque a metà dell'Ottocento, nel 1859 per l'esattezza, e alla fine di quel secolo e nel decennio successivo le sue ricerche iniziarono a scuotere l'intero edificio della fisica. Sentiamo come Sheldon Glashow introduce quel periodo a cavallo fra i due secoli. Sul finire dell'Ottocento, la scienza e la tecnologia erano trionfanti. L'Esposizione Mondiale di Parigi del 1889, centenario della Rivoluzione francese, fu una straordinaria mostra di nuove tecnologie. In particolare fu inaugurata la Tour Eiffel con i suoi ascensori, all'epoca la struttura artificiale di gran lunga più alta del mondo. Una fantastica novità, diversa da qualsiasi cosa l'uomo avesse mai costruito prima. Per competere con Parigi, nel 400° anniversario della scoperta dell'America da parte di Colombo, gli americani organizzarono a Chicago la grande esposizione colombiana, illuminando un'area enorme con la luce artificiale. Il pubblico ballava tutta la notte in quest'area illuminata. Fu così, si trattò di un periodo di grandi rivoluzioni e una di queste fu la meccanica quantistica, e alla base di questa strana teoria sul mondo, tanto strana a percorrerne le affermazioni fondamentali quanto straordinariamente utilizzata nelle più concrete applicazioni, e alla sua base che si collocano le ricerche di Max Carl Hans Ludwig Planck, questo è il suo nome completo, nato a Kiel in Germania. E infine qualcosa che riguarda noi, perché la redazione di Möbius è stata coinvolta in un dibattito che si terrà la prossima settimana a Milano, all'Università di Milano Bicocca, il 16 novembre per l'esattezza alle ore 15, ma trovate le indicazioni sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Si discuterà in questo dibattito, a partire da alcuni video di inchiesta, di come l'innovazione è percepita dal largo pubblico e di quali siano le cose, le situazioni della vita quotidiana che si pensa abbiano più necessità, più bisogno di innovazione. Il dibattito fa parte delle iniziative di Innovation Festival, appuntamento annuale organizzato dalla provincia di Milano. Allora andiamo anche noi lì mercoledì 16 e, come vi ho già detto, per i dettagli andate al nostro sito. E questo è tutto. Möbius si chiude qui, ci sentiamo fra 7 giorni.